We'll be right back.

da correggio in un pomeriggio freddo. Eravamo molto belli, Don Cico e Tavernelli, e la strada era pulita, il sound affascinante. Arrivammo al confine con lo spirito brillante, guidando piano piano passammo anche Lugano, il traforo era vicino, sognavamo già Zurigo, invece ci fermammo a fare merenda, una Fanta e una girella, una Fanta e una girella. Volevamo uscire dal tunnel, ma non ci siamo mai entrati. Un semaforo rosso, rosso, al gottardo ci ha fermati. Volevamo uscire dal tunnel, ma non ci siamo mai entrati. Un semaforo rosso, rosso, al gottardo ci ha fermati. Sono solo tra fuori, fuori e dolori, tra fuori tra noi, tra fuori tra voi, non si riesce ad entrare, non si riesce ad uscire da questi tra fuori assai bui, sono solo tra fuori e dolori, tra fuori tra noi, tra fuori tra voi, non si riesce ad entrare, non si riesce ad uscire da questi tra fuori assai bui. Volevamo uscire dal tunnel, ma non ci siamo mai entrati. Un semaforo rosso, rosso, al gottardo ci ha fermati. E la neve era fredda, fredda e tanta, e non c'era più Fanta. Il Taver impara, è sempre più giù. Ciao bella Zurigo, non arriviamo più. es la noche de los dioses. Por favor, destrózame. Destrózame.